Vi ho parlato diverse volte della gratitudine, proponendovi anche un esercizio che in soli 3 minuti è capace di ridarci la serenità. Provare per credere, il link è in descrizione. Proprio qualche giorno fa Claudio, commentando quel video, ha scritto così: ottimo esercizio, ma la difficoltà è mantenere lo stato raggiunto. Verissimo, e infatti in un secondo video vi proponevo di provare ad iniziare il diario della gratitudine, e proprio per fare in modo che la gratitudine non sia soltanto qualcosa che per 3 minuti la sperimentiamo e poi ce ne dimentichiamo, ma fare in modo che diventi un'abitudine costante, che diventi uno stato mentale per cui viviamo sempre nel presente e riusciamo a cogliere in ogni momento della nostra vita tutte le cose per le quali possiamo essere grati. Ma se ancora non siete convinti che la gratitudine possa avere questo beneficio così grande nella nostra vita, oggi voglio parlarvi di 5 benefici della gratitudine. È famoso lo studio dello psicologo Robert Emmons relativamente al legame che intercorre tra gratitudine e felicità. In questo studio è stato chiesto a 3 gruppi diversi di persone di tenere un diario. Il primo gruppo, dopo ogni settimana, doveva scrivere 5 cose per le quali si sentiva grato. Nel secondo gruppo le persone dovevano scrivere dopo ogni settimana 5 cose che avevano causato loro dei problemi. E il terzo gruppo invece, sempre a cadenza settimanale, doveva scrivere 5 fatti che gli erano accaduti. Dopo 10 settimane, indovinate un po', il gruppo che aveva avuto il compito di scrivere ogni settimana 5 situazioni per le quali si sentiva grato risultò essere più felice degli altri 2 gruppi. Appurato che la gratitudine è capace di regalarci felicità, vediamo più da vicino questi 5 benefici specifici della gratitudine. Primo beneficio: la gratitudine ci permette di affrontare con più serenità le giornate no. E sì, hai presente quelle giornate in cui ti va tutto storto, ti svegli in ritardo, esci di casa e perdi l'autobus oppure il treno che dovrebbe portarti al lavoro. E quando arrivi, naturalmente, appena metti il piede fuori dall'autobus comincia a piovere e non ti eri portato l'ombrello. Appena entri in ufficio il capo ti dice: come mai sei così in ritardo? E ti affida più compiti del solito come rappresaglia. E in quel momento ti ricordi anche che ti sei dimenticato di fare quella telefonata così importante che dovevi fare il giorno prima. E così via. Insomma, sono quelle classiche giornate in cui diciamo che ci siamo svegliati con il piede storto. Ecco, proprio in quelle giornate forse è importante fermarsi un attimo, chiudere gli occhi, sentire il proprio respiro, pensare a qualcosa per cui siamo grati. Pensiamo alla vita che scorre dentro di noi, pensiamo alla nostra casa, ai nostri affetti, alle cose che ci piace fare. Ecco, credo che proprio in quelle giornate porre l'attenzione, lo sguardo sulle cose per le quali siamo grati ci aiuta a ridimensionare quella negatività che ci sembra che in quel giorno si sta accanendo contro di noi. Quindi più gratitudine, meno stress, meno ansia, meno depressione. Secondo, la gratitudine migliora le relazioni verso gli altri. Se diventiamo più attenti e sensibili a cogliere il bene che c'è intorno a noi, ben presto ci renderemo conto che molto spesso questo dipende proprio dalle persone che sono accanto a noi. Ci accorgeremo di tutto l'amore che ci circonda e ci verrà più naturale rivolgere la nostra gratitudine anche verso gli altri. Ci verrà più naturale ringraziare, e anche se non sempre lo faremo esplicitamente, sicuramente questo atteggiamento, questa gratitudine di fondo renderà le nostre relazioni molto più profonde e molto più soddisfacenti. Il terzo punto è un corollario del punto precedente: la gratitudine diminuisce l'ostilità. Voglio dire, se divento più consapevole di tutto il bene che c'è attorno a me e che deriva dalle altre persone, ma allora probabilmente mi verrà anche naturale essere meno ostile e tendere ad avere rapporti più sereni con tutte le persone che mi circondano. Quarto punto, la gratitudine migliora anche l'autostima e la consapevolezza del proprio valore personale. Chi si abitua a sperimentare gratitudine saprà dirigere ben presto questa gratitudine anche verso se stesso, perché diventerà più consapevole dei piccoli risultati raggiunti giorno dopo giorno, che lo fanno sentire una persona migliore, che gli danno più consapevolezza delle proprie capacità. Se siamo grati di ciò che siamo, di conseguenza diminuirà anche in noi la spinta continua che abbiamo a paragonarci agli altri. Più siamo grati e più siamo felici non solo di ciò che abbiamo, ma soprattutto di ciò che siamo. Quinto punto, la gratitudine aumenta anche la qualità del nostro sonno. Cioè, mi stai dicendo che se mi abituo a sperimentare gratitudine dormirò anche meglio? Beh, effettivamente, se ci penso, quante sono le volte che mi dico ieri sera ho faticato ad addormentarmi perché avevo tutti quei pensieri che non mi facevano prendere sonno. Effettivamente sono proprio i pensieri negativi e le preoccupazioni che a volte ci tolgono il sonno. E allora se durante il giorno mi abituerò a sperimentare gratitudine verso tutto ciò che ho, allora sarà più probabile che anche alla sera, invece di star lì a pensare a tutte le cose negative, pensi invece a tutte le cose belle che mi sono accadute, a tutte le persone che ho accanto, al valore personale che ho costruito in questi anni. E allora riuscirò anche forse a ringraziare il buon Dio, a ringraziare la vita per quello che mi ha donato. Ecco perché anche il diario della gratitudine può essere importante farlo, svilupparlo proprio alla sera, proprio perché questi pensieri riusciranno ad essere per noi una dolce ninna nanna che ci cullerà nel prendere sonno, nell'addormentarci, per ripartire per una nuova giornata il giorno successivo, sempre grati perché ancora una volta abbiamo avuto la possibilità di svegliarci. Insomma, che la gratitudine può essere veramente una di quelle che tanti chiamano abitudini chiave, ovvero una di quelle abitudini, anche semplice, ma che migliora sensibilmente la nostra vita personale, la nostra vita interpersonale e anche la nostra salute. Ma lo sai che ti sarei proprio grato se volessi iscriverti al canale e attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche? E c'è anche un altro modo per non perdersi nemmeno uno dei video che escono ogni settimana. Vai sul sito comunicareilsorrisodidio.it, clicca sul link iscriviti e inserisci il tuo indirizzo email.